Buonasera a Eccoci tutti. Qua, siamo sui Colori dell'Anima, come avete potuto ascoltare. Abbiamo avuto questa sera qualche problemino tecnico, però ci siamo in onda. Siamo insieme a Barbara. Ciao Barbara. Ciao Cristina. Ciao. E me. Mi ascoltate, sì? Si sente? Sì, si sente, ok. Quindi siamo di nuovo con i Colori dell'Anima, dopo la pausa estiva, dopo un bel po' di tempo senza radio, chissà quanto vi siamo mancati. Sicuramente tantissimo. Se volete, allora, per tutti quelli che ci seguono via radio, siamo sui 101.9. Per coloro che ci volessero seguire da internet, siamo su radioalma.eu. E lì potete ascoltare tutte le trasmissioni di Radio Alma, quindi cliccate sui Colori dell'Anima e ci ascoltate una volta per ciascuno, me e Barbara, o Ruland e Donatella, o Rosanna, o Angelo e Carla. E se ci volete chiamare, il nostro numero è 02345 2656. Sì, esattamente. Quindi siamo ritornati questa sera di settembre di nuovo in radio dopo una lunga pausa estiva. Come stai, Barbara? Tutto bene, tutto rilassata dopo l'estate. Il sole, ho visto il sole che qua a Bruxelles non si vede sempre, però in questo periodo non mi posso neanche lamentare qui. Ecco. Questi microfoni, che dopo questa pausa estiva anche i microfoni sono stanchi. E a te ti vedo bene, Cristina. Tu sì, come stai? Sì, anch'io sto bene. Ormai per me le vacanze sono finite da tanto tempo. Però sono contenta comunque di stare qua. Sono contenta che abbiamo il sole, che siamo effettivamente fa caldo, quindi siamo bene. Sì, sì, questa pausa estiva ci ha fatto bene. Anche la pausa dalla radio, che era abbastanza stanca, devo dire. Sì. La tecnica e tutto questo, sì. Allora, che cosa abbiamo preparato per il nuovo anno, tra virgolette? Barbara, abbiamo preparato qualcosina per quest'anno, per rilanciare la nostra trasmissione? Per oggi abbiamo pensato... No, non per oggi, per ricominciare la nostra trasmissione. Allora, come al solito facciamo una trasmissione in italiano, per tutti quelli che amano l'italiano, questa lingua meravigliosa. E per tutti gli italiani che si trovano a Bruxelles e che sentono un po' la nostalgia di casa oppure vogliono ritrovarsi un po' tra di loro. Abbiamo anche pensato che quest'anno si potrebbero invitare anche ospiti non italiani che non parlano italiano necessariamente, e con cui potremmo anche tradurre. Loro ci parlano in inglese o in francese o in quella nella loro lingua, e noi traduciamo. Esatto, perché vogliamo comunque rappresentare... Mi senti? Sì. Sì, perché comunque vogliamo essere realisti, e in questa città che è così multiculturale, multietnica, vogliamo anche rendere la radio un po' uno specchio della realtà. Sì. Inoltre, niente, ci occuperemo sempre di cultura, di arte... qui e in Italia, alla ricerca di nuovi talenti, alla ricerca di novità. E abbiamo anche avuto un'idea che abbiamo lanciato alla fine dello scorso, diciamo, della scorsa stagione radiofonica, se così si può dire, che era il nostro famoso sondaggio. Brava, di che si tratta, Barbara? Allora, noi ci interessa sapere chi siete voi, chi ci ascolta ogni lunedì, forse non ogni lunedì sera, ma ogni tanto, chi siete, che età, da dove venite, dove abitate. E quindi non l'abbiamo ancora lanciato, ma abbiamo preparato un questionario per voi, che prossima volta vi diremo il link. Sì. E potrete rispondere, così noi sappiamo un po' come dobbiamo adattare anche le trasmissioni, cosa vi interessa. Potete anche dirci le canzoni che vi piacciono, così le mandiamo per voi, sì. Eccetera. Quindi. Sì, perché vogliamo rendere la nostra trasmissione più interattiva, e la vogliamo anche rendere più interessante con tutti i contenuti che vi interessano. Quindi presto lo troverete sul nostro blog, questo questionario. E speriamo che risponderete numerosi, così possiamo rendere la nostra trasmissione molto più bella, più interessante. Possiamo magari cominciare, possiamo anche dare un colore alle nostre vacanze. Brava. Ecco, giusto. Che colore daresti alle tue vacanze, Barbara? L'azzurro, io direi proprio l'azzurro per il cielo e per il mare che ho visto. Perché dove sei stata in vacanza? Io sono stata in Croazia, sì. Quindi c'era sempre cielo azzurro e il mare blu, quindi è stato molto molto bello. E tu dove sei stata? Allora, io sono stata in Italia. Okay. E sono stata anch'io al mare in Sicilia. Mm-hmm. Quindi potrei dire anch'io azzurro, l'azzurro del mare, l'azzurro del cielo, sì, bene, sì. Bene. Ma anche il giallo, il giallo del sole, sì. Rieccoci qua, siamo di nuovo in onda con I colori dell'anima. Ricordiamo, siamo sempre in onda con Barbara e Cristina. Ci ritroviamo dopo le vacanze, siamo sempre su 101.9, mentre se ci volete seguire via internet, dove ci potete seguire, Barbara? Internet. Sì, sì, via internet, quindi su radioalma.eu. E al telefono ci potete chiamare al nostro numero 02345-2656. E per chi non abita in Belgio, il prefisso è il 0032. Sì, esattamente. Quindi chiamateci o seguiteci, ascoltateci. Barbara è un po' timida, dice no, chiamateci, ma stasera potete chiamarci se volete farci uno scherzo, se volete metterci alla prova con la tecnologia potete chiamarci. Va bene, allora, per quelli che ci hanno seguito, per i nostri fedeli ascoltatori sconosciuti che vorremmo tanto conoscere, ricordiamo che l'ultima puntata che abbiamo fatto a luglio era su un tema che è un tema a noi molto caro, il cammino di Santiago. Ecco, brava. Esattamente. Abbiamo invitato Valentina che ci ha parlato delle sue esperienze, l'ha fatto già due volte il cammino e ci ha parlato un po' da quello che ha imparato camminando, le cose che ha vissuto. Esattamente, quindi nella natura, il cammino di Santiago che si fa in Spagna. E che sempre più persone decidono di fare, almeno sì, nel sì. Mio entourage. Sì, sì, è giusto, sì, sì, adesso va proprio alla moda. Sì. E quindi, siccome ci piace tanto questo filo della natura, della scoperta, continuiamo su questo filo conduttore, però con un altro tipo di scoperta. Di camminare nella natura. Di che si tratta? Allora, parliamo del geocaching. Non so se qualcuno lo conosce già o lo fa già, e si tratta di un tipo di caccia al tesoro in cui bisogna avere un navigatore GPS. Mm-hmm. E possono trovare le coordinate della cosa che si deve andare a trovare, del tesoro, diciamo. Sì. Quindi col GPS poi vai a trovarlo e poi devi cercare, quindi il GPS ti dice... Ancora un po' a destra. Beh, più o meno. Due passi a sinistra. E poi arrivi in un posto e devi trovarlo tu. E poi ce ne sono diversi, di diverse grandezze. Tipo, ci sono dei box piccoli da trovare, qualcosa di grande, di medio. Poi vi racconto un po' di più di cosa si trova dentro. E la cosa più interessante di questo geocaching è che si svolge in tutto il mondo. Ecco. Giusto. Ed è una cosa che ha cominciato in America quando i GPS quando ognuno aveva tipo un GPS a casa, e per una persona ha pensato per testare quanto tipo quanto giù non come dire quanto preciso. Come? Sì. Il GPS funziona, che ti manda, sai, perché il GPS non ti manda in un posto esattamente nel posto giusto. Ma infatti il GPS funziona con le vie, con i nomi delle vie, quindi con le coordinate. Con le, anche con le coordinate. Sì, sì, sì. Con le coordinate. Ecco, per il geocaching bisogna dare le coordinate, avere le coordinate per... Ah, ok, quindi è un altro uso del GPS, perché sì. Noi siamo abituati al GPS che dice alla seconda a destra girare. Beh, te lo dice anche, però tu cerchi, non cerchi una città, non cerchi una via, ma cerchi le coordinate. E quindi una persona in America nel 2000 ha pensato, vabbè, per testare come funziona il GPS. L'efficacia del GPS. Se è proprio preciso, io vado a nascondere qualcosa e dico ad altre persone di trovarlo. È nata così la cosa. Così è nato questo geocaching. Siamo nel 2012 e ci sono ancora persone che continuano a camminare alla ricerca di questi oggetti. In Belgio ce ne sono 33.953 geocache. Wow. Questo in Belgio, quindi tanti. Ecco, tantissimi. Tantissimi. Anche a Bruxelles ce ne sono tantissimi nel cinquantenario. Sì, dappertutto, sì. E dove si trovano le coordinate? Dove si trovano gli elementi per partecipare a questo? Perché in realtà è un gioco. Sì, è online. Bisogna iscriversi al sito geocaching.com e lì si trovano le coordinate per... Per giocare GPS e per giocare. E quindi poi si va in giro per le strade, per la campagna, a fare questa caccia al tesoro. Giusto. E chiunque può nascondere i tesori? Credo di sì, però bisogna poi sempre loggarlo, o non so come dirlo, su internet bisogna dire le coordinate. Ah, bisogna inserirlo nel sito. Ecco, e bisogna anche, perché ogni tesoro, diciamo, tipo ogni box contiene un logbook, un piccolo libretto dove ognuno che trova si scrive. Si scrive. Sento un po' un rumore, scusa. Non so, forse spegni un microfono. Non lo so. Mi senti? Adesso non si sente più. Mi senti? Io ti sento, sì. Ecco, sempre la tecnologia che ci accompagna. Sempre questi problemi tecnici. No, vabbè, però comunque ogni tesoro c'ha uno di questi logbook, un piccolo quaderno dove ognuno si deve scrivere quando è arrivato, la data, quando l'ha trovato, e il nome, perché ogni persona che partecipa a questo gioco ha pure un nome, si dà un soprannome. Sì, un nickname. Ecco. E poi, quindi si deve nascondere di nuovo. Sì. C'è pure un tesoro, poi dipende da ogni tesoro, grande o piccolo, ci sono anche delle piccole cose dentro che si possono vedere, tipo io... Ho trovato uno un paio di giorni fa e c'erano dei piccoli omini del uovo Kinder sorpresa. Ma quindi tu stai giocando a questo sì. geocaching? Sì. Ah, ok. Sì, cioè, qual è il tuo nickname? Non si può dire. Non si può dire. Ok. Sì. E quindi, però... sono anche alcune, io come se trovo un geocache posso prendermi una di queste figurine che sono in quel box però devo rimetterne un'altra cosa che ha almeno lo stesso valore o valore un po' di più, quindi sono queste un po' le regole, si possono prendere le cose però bisogna scambiare, non scambiare con qualcosa che vale un po' di più. Quindi tu puoi prendere un oggetto sì. e poi ne devi mettere un altro. Esatto. Ok. Che vale almeno la stessa cosa o di più. Ah. È un po' quella la regola. E quello che hai trovato lo puoi prendere, lo puoi tenere per te. Sì, quindi il tesoro, cioè una volta che hai trovato un oggetto, hai vinto. Beh, hai vinto, sì, hai trovato questo geocache, però ce ne sono tanti altri, quindi vuoi... Puoi ancora continuare a cercare. Sì. La collezione, perché sul sito dove ti iscrivi tu c'hai collezioni tipo tutti i geocache che hai trovato, una collezione di tutto quello che fai, trovi poi tutti i 150 geocache che hai fatto e puoi sempre aggiungere, è bello, è tipo diario, è una specie di collezione. Sì. Ok, come le figurine. Sì. Come la raccolta delle figurine. Ok, allora visto che siamo sui colori dell'anima, che colore diamo a questo a questa puntata di oggi? Darei di nuovo tipo verde, marrone, però l'abbiamo già dato l'altra volta per il cammino di Santiago. Beh, però Anch'io avevo pensato al verde. Vabbè, diciamo di nuovo verde. Sì, diciamo di nuovo il verde, perché è un gioco che si fa in contatto con la natura. Vogliamo mandare un'altra canzone, così facciamo riflettere la gente. Magari nel frattempo la gente va su sul sito. Quindi lì potete trovare tutte le informazioni su questo, su questa caccia al tesoro. Ve la raccomando a tutti, è una cosa molto divertente da fare, anche giusto per scoprire dei nuovi posti, per muoversi nella natura. E poi la cosa bella è che c'è una cosa nascosta davanti agli occhi di tutti più o meno, però nessuno lo sa, quindi tu vai a trovare questa cosa che è nascosta davanti a tutti più o meno, però così piccola che non, se non lo sai non la vai a trovare. Allora, come stiamo andando con la musica, Cristina? Stiamo facendo una caccia al tesoro pure con la musica. Allora, sto facendo il geocaching della musica, Cristina. Andiamo. E rieccoci qua sui Colori dell'Anima. Siamo sempre in onda con Cristina, Barbara, e abbiamo un ospite che è venuto a trovarci proprio adesso. Ricordiamo a tutti quanti che siamo su 101.9, potete sempre ascoltarci su radioalma.eu. Presto troverete su Radio Alma, sul blog dei Colori dell'Anima, presto troverete un sondaggio che lanceremo per conoscervi, per sapere un po' di più che cosa vi interessa, che cosa vi piacerebbe ascoltare, di cosa vi piacerebbe parlare, per rendere sempre di più la nostra trasmissione interattiva e interessante. Ma intanto questa sera stiamo parlando di un gioco internazionale, una caccia al tesoro, che si chiama Geocaching. Allora, Barbara, lo sai perché si chiama geocaching? Credo di sì, però diccelo tu. Dici... Credi di sì? Sì, no, è perché... Allora, cominciamo prima da come si pronuncia. Si pronuncia geocaching o geocaching? Caching, credo. Ok, caching. Sì, sì. In effetti, sì, sono d'accordo. Perché... Prima si chiamava diversamente. All'inizio, nel 2000, quando è stata inventata sta cosa, si chiamava GPS Stash Hunt. Però poi è diventato geocaching. Ecco, poi è diventato. Però tu sai perché, ce lo dici? Allora, come evidentemente tutti riescono a dividere la parola, abbiamo geo e caching. Geo significa terra. Da dove viene? Dal greco, mi sembra. E invece, ma comunque è una parola conosciuta da tutti. Invece caching viene dal francese cache, mm-hmm. che significa nascondere. Ecco. E infatti si tratta proprio di una caccia al tesoro. Sì, brava. E abbiamo oggi con noi il nostro ospite, come Cristina ha già detto, è Tom. Ciao Tom. Buonasera. Buonasera Tom. Tom è belga e lui partecipa a questo gioco, quindi come abbiamo già detto prima, questo anno vorremmo cominciare con invitare degli ospiti internazionali, non solo italiani, quindi noi parleremo in italiano e Tom ci risponderà in francese, perché siccome è belga, e noi poi tradurremo, ecco. Sì. Quindi questo si adatta anche molto, perché il geocaching è un gioco internazionale dove tutti possono partecipare. Giusto. E appunto abbiamo trovato un giocatore di un'altra nazionalità. Giusto. Quindi okay. Tom, tutto bene? Sì, se va bene. Se va bene. Così testiamo un po' il suo italiano, vediamo se ci capisce. Sì, facciamo le domande in italiano, ecco. E Tom ci risponde in francese. Se non ci capisce, poi traduco anche per lui. Okay. Allora, Tom, da quando conosci geocaching? Eh bien, ça fait quelque temps que je connais, pas très longtemps, mais c'est grâce à un ami qui lui en fait déjà depuis quelques années, je crois, il a déjà trouvé près de 500 caches. Wow. Ok. Traduciamo già. Sì. Quindi Tom dice che conosce questo gioco da non molto tempo, però l'ha conosciuto grazie ad un amico che invece gioca da tanto tempo. Sì, che ha già trovato 150 diversi geocache per il mondo, quindi sì. E qu'est-ce qu'il a trouvé par exemple? Qualcosa di strano che ha trovato? En fait, Il y a différentes caches, mais là où on l'a trouvé, c'était pour son enterrement de vie de garçon. Et donc, ah, ha trovato qualcosa per il suo addio al celibato? Sì. E cosa ha trovato? Oh, c'était les géocaches assez simples. C'était juste, c'était parce que c'était à l'endroit où on le faisait. Et... Ma assez simple, c'est comment, comme un géocache? À quoi ça ressemble? Oui, à quoi ça ressemble? Eh bien, par exemple, c'était une petite boîte pour les pellicules de films, petites boîtes qui étaient cachées sous Una une pierre. Una scatola con le pellicole per i film. Sì. No, non la scatola, sì, quella di prima, quando compravi... Una cassetta, una videocassetta. No, no, no, quando compravi prima i film per la foto... Per gli apparecchi foto. Oui. Per fare le foto. Dove c'erano i film. Un rullino. Ecco, brava. Un rullino per fare le fotografie. Sì. Quindi era molto piccolo quello e quindi è un po' più difficile da trovarlo. Beh... E che cosa fa lui con questo rullino? Ma no, è dentro. Ah. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il n'y avait pas grand-chose, il y avait juste le logbook, donc juste la petite feuille pour marquer son nom. Ah, ok. Okay. Ed era un gioco. Quindi dentro questo rullino c'era un foglio per scrivere il suo nome, quindi per notificare che l'aveva trovato. Sì, sì. E dopo questo gioco, questo geocache, l'avevate messo voi per lui? Non. Vous l'aviez mis pour lui? Non, non, non, c'était quelqu'un d'autre qui l'avait mis déjà là. Il y avait déjà une centaine de personnes qui étaient déjà passées. Qui avaient déjà signé? Oui. Ah, quindi tante altre persone avevano scritto su questo foglietto che si trovava dentro la piccola scatola del rullino della macchina fotografica. Quindi già tante persone l'avevano trovato e quindi lui poi l'ha dovuto rimettere allo stesso posto per le prossime persone che lo troveranno. Però, Tom... Questo qua è stato un piccolo geocache. Nei grandi geocache cosa si trova dentro? Ce qu'on trouve dedans? Oui. Oui, c'est beaucoup plus grand. Donc là, il y a déjà un plus grand logbook, quelque chose pour écrire. Et puis parfois, il y a des objets comme des peluches. Ah oui, peluche, ok, oui. Allora, dentro, quindi nei geocache più grandi, troviamo sempre il logbook, quindi sempre un piccolo quadernino, un foglio per scrivere il nome... E la data quando si è trovato e poi c'è anche ci può essere un oggetto tipo non so, un peluche o teddy bear. Un teddy bear, yeah. Ecco. Io ho visto su internet una papera. Una papera, ecco, sì. C'è sempre disegnata una papera, non so se loro l'hanno scelto la papera come simbolo così rappresentativo. C'è un Tom, esiste un simbolo del geocaching? Je crois qu'il y a quelques symboles qui sont parfois mis comme une petite voix. Je ne sais plus à quoi ça ressemble, mais il y a certains geocoins qui ont l'effigie. Ah oui. Come funziona la cosa dei geocoins e il y avait une autre chose, c'era un'altra cosa, era trackable bugs ou quelque chose dans le genre. C'était quoi? Cos'era? Travel bug e geocoin. Cos'è questa cosa? Alors ça, ce sont des petits objets en métal ou bien, pour faire rien avoir, ça peut être une petite voiture et qui ont un numéro de série. Ok, si può trattare di piccole oggetti in metallo, delle piccole automobiline e che hanno un numero di serie. Donc on prend cet objet, on peut le sortir comme ça et le numéro de série, on le met sur le site de geocaching pour voir d'où provient l'objet. Ah, quindi quando si prende l'oggetto, si può inserire il numero di serie dell'oggetto nel sito e si può vedere da dove viene questo oggetto. Sì. E puis alors parfois il y a un objectif, il faut soit l'emmener le plus loin possible ou bien le faire voyager jusqu'à un tel endroit, donc soi-même on doit le ramener dans une autre cache plus proche de son but. Ok, quindi dopo aver trovato questi oggetti, forse nel sito si possono trovare delle altre indicazioni, per esempio di portare questo oggetto il più lontano possibile o in altri c'è scritto, in altri c'è scritto anche che questo piccolo travel bug deve arrivare in questo posto, quindi le persone devono portarlo un po' più vicino, e così ecco, così arriva un giorno, arriverà in quel posto dove dovrebbe arrivare. Però ci sono alcuni che devono solo viaggiare al più lontano possibile senza una meta, ecco. E quindi ritorniamo al viaggio e alla meta. Ci piace questo tema. Ci piace tanto. Ok. Lanciamo un'altra canzone, forse? Sì, intanto una piccola pausa. Ecco, vediamo cosa ci... Adesso vediamo se la tecnologia ci accompagna. Lanciamo veramente Ligabue. E rieccoci qua, siamo sempre sui colori dell'anima. Radioalma.eu. Ecco, brava, è 101.9. Esattamente, per tutti quelli che ci ascoltano in radio. Chi ascolta ancora la radio oggi? Beh, sul live streaming? Sì, sicuramente. Però in radio? Ma anche in macchina, molte persone in ascoltano macchina, la radio giusto. In macchina. Sì. Va bene, quindi ricordiamo, la puntata è quasi finita, ma se volete ancora intervenire, se volete raccontarci dove avete nascosto il vostro geocache, Beh, forse non raccontarcelo, però ci potete raccontare che l'avete nascosto, che giocate, in effetti. Se volete ancora partecipare, noi siamo qui, il nostro numero di telefono è 02345 2656. Esatto, quindi Barbara. Allora, io volevo ancora raccontarvi qualcosa del codice di comportamento dei geocache. Quindi una cosa del genere esiste, e secondo me è anche una buona idea, perché dice che non bisogna nascondere niente in una zona protetta, dove la natura è protetta, perché okay. Non vogliono che la gente va in posti e distrugge qualcosa. Distrugge, ecco. Quindi questa è una cosa, quindi in parchi naturali non si può nascondere lì. Mm-hmm. Poi un'altra cosa che dice il codice di comportamento è che se, come ho già detto anche prima, se trovi un geocache, un tesoro, diciamo, lo prendi, lo apri e ci sono delle figurine o qualcosa dentro che ti piace, te lo vuoi tenere anche per ricordo, ma tu devi sempre rimettere qualcos'altro di almeno stesso valore o di valore un po' più alto, superiore. Devi rimettere dentro, quindi questa è un'altra regola. E l'altra cosa è che bisogna sempre inserirsi nel logbook, quindi bisogna sempre firmare, lasciare il nome e la data quando si è trovato, ecco. Sì. E queste regole mi ricordano, sono un po' delle regole generali che vanno sempre bene per i giochi, ma anche per tutte le comunità, ma anche nel pellegrinaggio di Santiago. Magari può sembrare strano fare la comparazione, però in realtà ci sono le stesse regole, perché per esempio quando si cammina sulla strada di Santiago si va negli ostelli e lì si può trovare un letto dove dormire, si trova un bagno e tutto, si può trovare anche una cucina con dell'olio, del sale, qualche spezia. E le regole sono che si può usare tutto quello che si trova, però si sostituisce. Per esempio, se l'olio finisce si mette un'altra bottiglia, così anche gli altri pellegrini che vengono in seguito possono anche loro mangiare, possono anche loro restare. Bello così, ma quindi se non finisce la bottiglia non bisogna rimettere niente? Insomma, se si consuma un po' si mette anche qualcosa. Un po'. Mm-hmm. Sì. No, mi sembra giusto così, sì. Anche buono. Sì, perché sì. Così gli ostelli sono disponibili per tutti, come i geocache sono lì per tutti, però ci sono delle regole che vanno rispettate. Mm-hmm. Bene, okay. Bene. No, un'altra cosa che volevo dire è che ci sono diversi tipi di geocache. Quindi c'è il cache tradizionale, che è un cache, quindi tu metti le coordinate nel tuo navigatore e vai direttamente in quel posto dove è nascosto, e poi devi cercare un po' intorno e lo trovi. Poi ci sono i multi-cache, dove tu vai e devi trovare tipo indizi, sì. Che ti mandano sempre, è una vera caccia al tesoro allora, sì. Perché ti manda sempre avanti e ti manda fino a che alla fine trovi il geocache. Quindi ti aiuta anche a trovare le coordinate, a volte non hai le coordinate, ti aiuta a trovare, tipo sì. Ti fa un... Enigma o non so come, sì. Ecco, ti dà degli indizi, devi trovare delle cose nella natura, devi contare, puoi dividere per, non so, e poi devi trovare, devi, sì, prima trovare le coordinate per poi per riuscire a trovare, riuscire a trovare, ecco. E poi c'è il Challenge Cache. Tom, tu conosci il Challenge Cache? Cos'è il Challenge Cache? Qu'est-ce que c'est le... C'est Challenge cache. Une cache dans laquelle on a un challenge à faire. Ah oui. À ce moment-là, ça dépend. Oui. Ça dépend à chaque fois. Donc, le challenge est tipo. Allora, appena la persona trova il cache, c'è scritto dentro per aver veramente. Trovato, diciamo, per aver veramente riuscito a fare questo geocache. Bisogna ancora ballare o cantare, diciamo, davanti a, sai, una cosa stupida, un challenge da fare, un cantare davanti a tutti intorno o non so, robe okay. Così. Quindi sì, queste qua sono i tre tipi di cache. Poi ho visto anche che ci sono dei geocache che sono nascosti sott'acqua, quindi per i submarini, ecco. Wow. Sì. E quindi, tu Barbara, stai giocando a questo geocache? Sì, sì. Ho cominciato non troppo tempo fa, però ne ho già trovati anche a Bruxelles, nella Vallonia, a Binche. Ok. E quindi sì. E quindi e hai anche nascosto degli oggetti? Nascosto, allora, per questo chiediamo a Tom adesso, perché lui ha nascosto per noi, per tutti gli ascoltatori di I Colori dell'Anima, un geocache. E adesso do la parola a lui. Cosa? Eh bien, donc oui, comme Barbara disait, pour nos auditeurs, j'ai mis une géocache quelque part. Alors, pour trouver les coordonnées, déjà, il faut savoir, c'est une petite géocache, peut-être 10 cm de haut. Mm-hmm. Ok, quindi, allora, lui ha nascosto un geocache qui a... No, l'ha nascosto. Ok, l'ha nascosto. Non ci dice ancora dove. Non si dice dove. ed è una diciamo un barattolo, qualcosa di 10 centimetri. Ecco. Ok. Alors, pour ceux qui veulent la trouver, y a des chocolats dedans. Donc n'hésitez pas à vous servir. Questa è una buona raison pour motiver les gens. Quindi voilà. Lui ha messo dei cioccolatini dentro, quindi chi vuole trovarli, ci sono cioccolatini dentro per voi. Esattamente. Per motivarvi ad andare a trovare. E donc si vous la trouvez, n'hésitez pas à laisser. I cioccolatini si possono mangiare? Sì. E forse se volete anche metterne un altro dentro, mangiate uno e rimettete un altro. Ok. Oui, oui, donc si vous la trouvez, n'hésitez pas à mettre votre nom, la date de quand vous l'avez trouvé et un petit message pour que Barbara et Christina puissent le lire à l'antenne à la prochaine émission, par exemple. Ok. E Tom ha detto che se lo trovate il geocache, mettete il vostro nome, la data quando l'avete trovato, forse un piccolo messaggio per noi, così lo leggiamo nella prossima puntata. Sì, e come lo troviamo questo geocache, Tom? Alors, je vais vous donner les coordonnées, mais pas tout en entier. Il y a une petite énigme quand même pour pouvoir trouver la bonne. Ah, quindi fa un piccolo enigma, fa un piccolo no, non challenge, ma multi cache, no? No. Tradizionale, vabbè. ci fa un piccolo enigma, quindi ci dà la metà delle coordinate e non tutte ancora. Dovete trovarle voi. Alors, c'est nord 50 degrés. Ok, quindi nord, poi 50 gradi. 84. Et puis... 84. 84 primi. Mm-hmm. Et puis, il y a trois chiffres qui correspondent à trois fois les trois premiers chiffres de la fréquence de radio allemande. Ah, ci sono tre numeri. Che corrispondono a tre volte le tre cifre della frequenza di Radio Alma. Ma la prima frequenza? Beh, non so. Per esempio, se la frequenza è 1.9. Oui. Le nombre qu'on a là, fois 3. Ok, quindi per tutti quelli che sono stati attenti e che ci hanno seguito finora sulle nostre frequenze .9 allora ricominciamo, ricapitoliamo tutte le coordinate: 50 nord, 84 primi e poi per 3. Sì. Quindi la nostra frequenza, le prime tre cifre della frequenza di Radio Alma per 3. Sì, giusto. La frequenza di colori dell'anima. Per tutti quelli che sono stati attenti e che hanno scritto, buona ricerca. E le coordonnées est, vu qu'il faut longitude et latitude. Ok. C'est est 4 degrés. Est, allora le coordinate est 4 gradi. 38. 38 primi. 873. Ok, quindi io me lo sono scritto pure anch'io, così dopo me lo scrivo anch'io, così vado a cercare. Ecco, brava. Così andiamo a mangiare i cioccolatini. Ecco, sì. Dobbiamo mangiare i cioccolatini. Okay. Vedere cosa ci ha nascosto Tom. Va bene, grazie Tom. Grazie, cosa volevi dire? Volevi dire ancora qualcosa? No? Ok, grazie mille per averci grazie nascosto. Mille per aver partecipato, siamo molto contenti, sei il nostro primo ospite internazionale dei colori dell'anima. Giusto. Ok, quindi concludiamo questa puntata sul geocaching lasciando qualche annuncio. Volevo ricordare a tutti quanti che la prossima domenica 16 settembre è la Journée du Patrimoine en Belgique a Bruxelles, quindi la gran parte dei monumenti sono aperti, c'è una possibilità di visitare, andare in giro per luoghi d'arte a Saint-Gilles, in centro, a Laeken, i palazzi reali, eccetera. Quindi andate tutti in giro, c'è anche la Journée sans voiture, quindi potete portare i vostri bambini, potete andare in bicicletta con lo skateboard, con i pattini, potete andare tranquillamente perché non ci saranno macchine, tutti felici e contenti. Mentre in Italia le giornate del patrimonio saranno il 29 e 30 settembre. Quindi tenetevi pronti anche per visitare l'Italia. Se magari volete fare un piccolo city trip il weekend della fine di settembre, potete andare a visitare. Invece Barbara vuole lanciare un altro annuncio? Sì, ecco, se avete una bici e volete farla registrare, diciamo, potete andare questa domenica al Parco Cinquantenario e lì mettono tipo un numero serie nella bici. Ah, quindi, sì, perché? Sì. Per così se vengono rubate le bici si trovano più facilmente o ok per, sì. Quindi per tutti quelli che hanno una bici questa domenica potete farvi registrare, ecco, al Parco del Cinquantenario. Sì. E non credo non costa niente, lo faccio anch'io. Ok, va bene. Okay. Un'altra cosa, l'ultima cosa che volevo dire che prima non abbiamo detto, Tom, allora le coordinate che ci ha dato Tom per trovare il geocache le metteremo ovviamente sul blog, quindi sì. Se non avete avete avuto il tempo di scriverle, ecco, di trovarla adesso, la troverete sul blog. Sì, esattamente, quindi seguiteci anche su internet, leggeteci, ascoltateci, seguiteci.